Ad alta voce, edizione 20 anni. Tommaso Ragno legge Panchine di Beppe Sebaste. Passeggiare da fermi. All'epoca di Ginevra non avevo visto ovviamente il film Las Lunes al Sol di Fernando León de Aranoa, né avevo tenuto con quel titolo, Il lunedì al sole, una rubrica sul quotidiano L'Unità. Non conoscevo nemmeno le declinazioni della povertà e della ricchezza, spesso invisibili. Conoscevo solo superficialmente quei particolari margini della vita collettiva che si chiamano periferie. Non sapevo ancora quasi niente. Las Lunes al Sol racconta il trascorrere dei giorni di un gruppo di amici operai, già compagni di lotte, licenziati dai cantieri navali. Il loro bisogno di risollevarsi, la ricerca di un altro lavoro, le infelicità domestiche e sociali, ma soprattutto le loro conversazioni libere all'aperto, il loro ozio forzato. A volte si vedono delle vere panchine, ma tutto è un po' panchina. Anche gli scogli sul mare, i muretti, il bancone di un bar. Le loro parole scelgono il paradosso e la fantasia per dire meglio la realtà delle cose. Come ad esempio quelle di un immigrato dell'Est che scopre che tutto quello che gli avevano detto sul comunismo era falso. Ma la cosa peggiore è che tutto quello che gli avevano detto del capitalismo era vero. I racconti, le fantasie, i vaneggiamenti dei disoccupati sono la cosa più bella del film. L'Australia è agli antipodi, dice uno guardando il mare e l'orizzonte. Che cosa sono gli antipodi? Beh, sono il contrario. L'Australia è il contrario. Per esempio, là c'è un sacco di spazio, qui no. Là si lavora, qui no. I lunedì al sole, che non sono così diversi dalle giornate di lavoro degli scrittori, sono una bella immagine della verità della letteratura. La letteratura è piena di panchine perché parla della vita della gente e la gente, sopra ogni cosa, aspetta. E aspettando, gira a zonzo e si siede dove capita. Poi parla di panchine perché quelli che scrivono, oltre ad aspettare e guardare anche più degli altri, hanno spesso una vita di frontiera, senza appartenenza. La vita di scrittori e artisti è spesso oziosa per lo sguardo comune, cioè straordinariamente assorbita dal loro lavoro invisibile. Gli scrittori che parlano di panchine appaiono più per di giorno di altri, come i personaggi dei racconti dello svizzero Robert Walser, la cui esistenza fu volutamente ai margini dello stile di vita borghese. È lui l'autore che mi veniva in mente nel luogo segreto di mio figlio a Ginevra, immobili tra i corpi frettolosi e le luci multicolori dei negozi. Una volta ho scritto che se Don Chisciotte fosse stato svizzero e si fosse trovato in una città del primo Novecento, guarito dalla follia, ma pur sempre sognatore e vagabondo, con un'inalterata smania di mettersi al servizio del prossimo, forse avrebbe ragionato fra sé come lo scrivano Simon Tanner. L'edificio di una banca è proprio una cosa stupida. In primavera, che effetto farebbe un istituto bancario in mezzo a un rigoglioso prato verde? Forse la mia penna mi sembrerebbe un piccolo fiore appena spuntato dalla terra. Le nuvole bianche passano nel cielo e io devo stare qui a scrivere. Perché guardo le nuvole? Se fossi un calzolaio, almeno farei le scarpe per bambini, uomini e donne, e loro in una giornata di primavera andrebbero a passeggio per la strada con le mie scarpe. Io sentirei la primavera se vedessi la scarpa fatta da me sul piede di un altro. Qui non posso sentirla. Mi disturba. Ecco, in questo periodare giovanile, tratto dai Fratelli Tanner, 1907, c'è tutto l'incanto della prosa tenera e lieve di Walser. Come gli scrittori da lui più amati, sui quali ripetutamente scrisse Kleist, Lenz, Büchner, Walser fu un anti-Goethe, anomalo e ai margini. La sua scrittura, come la sua vita, fu precaria e appartata fino alla decisione del silenzio, quella di andare ad abitare, cinquantenne, in un asilo psichiatrico a Herisau, da cui usciva la domenica per fare lunghe passeggiate, a volte in compagnia del devoto editore Karl Selig. Non mi ricordo se ci siano panchine nel libro di memorie di Selig. Nel frattempo scriveva a matita, in una calligrafia minuscola e impossibile, un'enorme produzione di racconti. Se lo Zen fosse nato in Svizzera, o se nel cantone di Berna vi fossero stati dei monasteri buddisti, forse Robert Walser ne sarebbe stato monaco, in umore di santità. Fu comunque lì, durante una passeggiata, che il 25 dicembre 1956 Walser morì accasciandosi sulla neve. Una foto lo ritrae. Il suo corpo sembra un segno di matita tracciato sulla neve. Che Walser si identifichi in quasi tutti i suoi personaggi è noto. Uno poco conosciuto è il giovane poeta Sebastian, del racconto intitolato appunto Poeta, Dichter, apparso sulla rivista Die Insel nel 1900, quando Walser aveva solo 22 anni. Ha lo stesso nome di uno dei fratelli Tanner e la stessa autoironia. Ecco le prime parole nella traduzione di Mattia Mantovani. Ecco, voglio sedermi su questa panchina di pietra davanti a questa vecchia casa. Qui non c'è nessuno al quale possa dire quanto mi sento stanco. Sono un poeta. La mia missione consiste nel costringere i miei sentimenti in quelle misere sequenze di sillabe che si chiamano versi. Già, i miei versi. A giudicare dalle alzate di spalle e dai freddi sguardi di coloro che li leggono, deve trattarsi di versi piuttosto brutti. Ma io non mi lamento, no, non mi lamento affatto, perché non c'è niente da fare. I miei lamenti potrebbero anche essere commoventi, ma non sarebbero in grado di fare di me un artista migliore. E allora mi faccio forza e continuo a scrivere. È una cosa che fanno molti poeti, perché c'è una gran quantità di motivi, forse assolutamente ignobili, che impone loro di farlo, che impone loro di continuare a scrivere. Ciò che mi spinge è forse la semplice noia di scrivere, di cose che, quando mi guardano, prima che io le trasformi in parole, mi ispirano tristezza, se non addirittura qualcosa di molto peggio. Il mondo ci passa sopra. Il mondo scherza coi mezzi talenti dei quali sembra che io faccia parte. Il mondo accetta e tollera ciò che invece dovrebbe allontanare energicamente da sé. E tuttavia il mondo dice che sono un folle, cosa che invece, purtroppo, sono fin troppo poco. Però non osa dirmelo in faccia. È una cosa che mi sento dire alle spalle, o di lato, oppure sussurrata dall'alto. È una cosa che il mondo mi lascia solamente intuire. Ah, se avessi un lavoro che mi permettesse di guadagnarmi onestamente la pagnotta, un lavoro vero, col quale guadagnarsi la pagnotta più onestamente che non con questa mezza missione poetica nella quale sono immerso fino al collo. Walser, che ha imparato in una scuola per domestici l'arte cerimoniosa del servire che traspare nelle sue storie, è il più disadattato degli scrittori contemporanei, ma è anche il campione della libertà narrativa. Quello che più di ogni altro ha allargato l'area della storiabilità, insegnandoci che ogni minimo evento è esperienza degna di essere narrata e che discorso e percorso appartengono a un comune anarchico divagare. Penso a La passeggiata o ai temi di Fritz Kocher. Recentemente lo scrittore tedesco Winfried Sebald ha dedicato a Walser un riverente e commosso omaggio dal titolo Il passeggiatore solitario, ma è Walter Benjamin che gli dedicò un saggio folgorante. I personaggi dei racconti di Walser, scrisse, sono figure che hanno dietro di sé la follia, ma Se si vuole indicare con una parola ciò che essi hanno di felice e di inquietante, si può dire che sono tutti guariti, folli guariti, dalla cui bocca esce prosa pura e forte come l'aria della vita che guarisce. Su Walser e Benjamin, il grande critico e filosofo che ha fatto del vagabondaggio urbano Flannery un metodo, voglio aprire una parentesi. Non bisogna dimenticare, quando si cita Benjamin, che egli è ben lontano dal cliché accademico dello specialista. Non è mai stato professore universitario e ha condotto una vita di marginale e indigente, oltre che di perseguitato e nomade. Homme de lettres, come si diceva fino al Settecento, per vivere, non aveva altro reddito né altra appartenenza che il proprio leggere e scrivere. E come proprio parco e panchina, la grande Bibliothèque Nationale di Parigi, oggi sfrattata dal Marais e trasferita nei palazzi di vetro di Tolbiac. Walser, dunque, è uno di quegli autori che, per Benjamin, esemplificano e realizzano l'incontro tra un'idea di letteratura e un'idea di rivoluzione politica, forse anche un'idea di religione, ciò che è stato definito il messianesimo di Benjamin, la sua utopia. Questa utopia lui la chiamava comunismo, ma anche paradiso. C'entra con la letteratura e col linguaggio, perché l'aspetto più eclatante di questo luogo è che chi vi risiede non ha beatamente più nulla da dire, è esentato cioè dall'uso strumentale borghese del linguaggio. Come accade per i personaggi di Walser, ciò che nel paradiso esce dalla bocca è pura prosa o pura poesia, pura lingua trasparente a se stessa, che non ha nulla a che spartire con la comunicazione o l'informazione, dove, con altre parole, si può dire e parlare un idioma che sia come la lingua degli uccelli e dei nati di domenica. Se vi fossero una retorica o una stilistica delle panchine, credo che risulterebbe che in esse sia sopravvissuto un tipo affine di linguaggio, condivisione più che comunicazione, che una certa letteratura marginale ha generosamente raccolto. Sedersi sulle panchine è l'equivalente del passeggiare a vuoto. Nessuno come Walser, ha scritto un altro scrittore svizzero, Peter Bixel, sa descrivere il passeggiare in sé e per sé. Non è né un camminare né un osservare. Le cose, per lui, esistono quasi casualmente, non hanno nome. Gli alberi si chiamano alberi, i fiori fiori, e il lago si chiama lago. La forma della passeggiata ha il ritmo di un blues, aggiunge Bixel, e il narratore, l'uomo che passeggia, non si dirige intenzionalmente verso qualcosa, ma lascia sempre consapevolmente qualcosa dietro di sé. Anche Gianni Celati, l'autore di Narratori delle pianure e di Narratori delle riserve, ha dato un commento lungimirante su Walser e la sua passeggiata senza meta. Lo scandalo di Walser, ha scritto, è quello di una scrittura che dichiaratamente non cattura nulla, che anzi celebra affettuosamente tutto ciò che ci sfugge. E proprio per questo acquisterà un'importanza sempre maggiore quando tutto il campo della letteratura ufficiale sarà composta solo da prodotti fabbricati per il successo, cioè oggi. Negli scrittori da panchina, per fortuna, prevale l'arte della passeggiata e della conversazione oziosa, della chiacchiera, del parlare a vanvera, del parlare a vuoto, fantasticare, divagare, sognare ad occhi aperti, raccontare panzane per dire la verità con un effetto di anamorfosi, tutto un universo di metafore, di paradossi, di iperboli, di moti di spirito, di osservazioni acute e acuminate, di moralità leggendarie, di miti, di trasparenza, di libertà, di lunedì al sole. Perché le panchine, se non sono il paradiso e neppure il comunismo, sono comunque il luogo in cui è possibile dire quello che si pensa, che a volte non si sa nemmeno di pensare. Una zona franca del linguaggio e della mente. La sua espressione letteraria comprende autori come il praghese Rabal o il padano Zavattini e tutti gli altri visionari, spesso emiliani, che scrivono come se parlassero con la bocca piena e vivessero su una panchina. Tutti, ognuno a suo modo, devono qualcosa nel loro nudo incantamento al valzer di queste esclamazioni. Com'è bella la bellezza! Come può affascinare il fascino! Tommaso Ragno ha letto Panchine di Beppe Sebaste, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad Altavoce Edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.